10 e 25, 2 agosto 1980, 2 agosto 2020. La strage alla stazione di Bologna, 40 anni dopo. Flash GR2. Dalla redazione del GR2 Marco De Strobel, una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Roma. Ci sono morti e feriti. La deflagrazione di Bologna. La deflagrazione di enorme potenza ha fatto crollare un tratto del fabbricato lungo circa 50 metri. Ospitava i locali del ristorante e delle sale di attesa di prima e seconda classe della stazione di Bologna. Da una parte fiancheggiava la pensilina del primo binario, il fronte opposto dava invece su un parcheggio di taxi. Il fabbricato è crollato al 90%, seppellendo decine di persone. Macerie sono cadute anche su tre o quattro carrozze del treno straordinario Ancona-Basilea, che era in sosta sul primo binario. Ci sono probabilmente morti e feriti anche tra i passeggeri di questo convoglio. In parte è crollata anche la pensilina e, secondo i primi accertamenti, un tratto di un sottopassaggio della stazione, ripetiamo, della stazione di Bologna. Ancora non si conoscono le cause dell'esplosione e si fanno varie ipotesi. Naturalmente nelle prossime edizioni del GR2 vi terremo aggiornati su questa esplosione che, ripetiamo, è avvenuta alla stazione di Bologna ed ha provocato morti e feriti. Quella che avete appena sentito è la registrazione dell'edizione straordinaria del GR Radio 2 del 2 agosto 1980 alle ore 11.08. È la prima notizia che si apprende della strage alla stazione di Bologna avvenuta alle 10.25. In questo quarantennale abbiamo voluto realizzare uno speciale radiofonico sul 2 agosto. 5 puntate, ognuna con un tema specifico sulla strage, in cui ascolteremo le parole di storiche, testimoni, esperti, avvocati che ci hanno aiutato a mettere in fila i fatti e le emozioni, l'evento 2 agosto e la memoria di quella data. Per cominciare prendiamo in prestito le parole di Antonella Beccaria, giornalista che si è occupata a lungo della strage di Bologna. 85 morti e 200 feriti. E questo è il bilancio della più spaventosa strage che si sia mai consumata nell'Italia del dopoguerra. Una strage che in Europa verrà superata in termini di vittime solo dagli attentati dell'11 marzo 2004, quando vennero presi di mira i treni pendolari spagnoli. Strage, infatti, ricorrendo agli articoli del Codice Penale 285 e 422, sarà scritto sul fascicolo aperto nell'immediato dal procuratore di Bologna Ugo Sisti. Dirà la perizia balistica che le vittime, la maggior parte sul colpo, altri nei giorni successivi, sono state uccise da un ordigno che pesava circa 23 kg, composto da 5 kg di tritolo e T4, una miscela che va sotto il nome di Compound B e che viene usata in campo militare. I restanti 18 kg erano gelatinato, cioè nitroglicerina a uso civile, usati per potenziare la bomba. L'ordigno, inoltre, sempre secondo le perizie, era custodito in una valigia posizionata su un tavolino portabagagli a una cinquantina di centimetri da terra e in prossimità di un muro portante. Circostanze che hanno potenziato gli effetti dell'esplosione provocata da un innesco costituito da un temporizzatore artigianale di natura chimica. Quel tipo di esplosivo, malgrado ciò che è stato detto che ancora oggi si dice a cicli costanti, non avrebbe potuto deflagrare accidentalmente, né per urto né per una sigaretta caduta a qualcuno. Bologna, 2 agosto, ore 10 e 20. Il cielo è un forno di pane pronto per la cottura. Scappare sul mare di questa pianura e poi approdare isole azzurre, felici, ma tu. Bologna, 2 agosto, ore 10 e 21. Dicevi che hai bisogno di riflettere. Se in questi giorni le parole hanno un senso anche fra di noi. Bologna, 2 agosto, ore 10 e 22. D'accordo, non si può buttar via niente. D'altra parte non è possibile conservare tutto negli angoli della memoria, salvare l'indispensabile. Bologna, 2 agosto, ore 10 e 23. Lo so che non sono migliore o peggiore di tanti. Cerco con gli anni di diventare diverso. Ho fatto errori tremendi, ma non mi sono mai consolato. La vita non è una prova di Formula 1 per guadagnare la prima griglia in partenza. Bologna, 2 agosto, ore 10 e 24. Dammi la tua mano. Vivere una volta per tutte, definitivamente. Bologna, 2 agosto, ore 10:25. Senza un fiato di vento il cielo ha buttato. Un grido tremendo, un sole nero corre per le strade. Io voglio provare i miei sentimenti come su una lastra di fuoco. Bologna, 2 agosto, ore 10:26. Ah, il cuore. Piange, piange, adesso piange come un sasso che ha vita. Chiamano, contiamo i morti. La libertà è lì, a terra, ferita. Non possiamo più dare, soltanto pietà. Quest'estate è finita. Bologna, 2 agosto, ore 10:27. Ma dammi la tua mano, io non mi rassegno, non mi voglio rassegnare. Scheda. Sono salito a cavallo di una tigre, non pensavo mai che corresse così forte. C'è un uomo a Roma, all'hotel Excelsior, il suo quartier generale, che medita di lasciare la capitale e di rifugiarsi all'estero. È il febbraio del 1981, sei mesi dopo la strage di Bologna, e quell'uomo si chiama Licio Gelli. È un personaggio potente, ma un potente da retropalco, nonostante da qualche anno sia nel mirino dei settimanali Panorama e L'Espresso. Il 5 ottobre 1980, però, esce allo scoperto e concede un'intervista al più importante quotidiano nazionale, il Corriere della Sera, rispondendo alle domande di un giornalista ai tempi poco più che quarantenne, Maurizio Costanzo. Nessuno, quasi, sa che il giornale ormai è nelle mani di Gelli e che Costanzo è iscritto alla sua loggia, la P2. Righe fittissime quelle dell'intervista, al termine delle quali, dopo aver disquisito di democrazia, fagioli e pena di morte, Gelli risponde a una domanda. Da bambino, cosa avrebbe voluto fare una volta cresciuto? Il burattinaio. Licio Gelli nasce a Pistoia, il 21 aprile 1919 da una famiglia di modesta estrazione e fin da giovanissimo punta a una vita più agiata e avventurosa. Così nel 1936 va a combattere in Spagna al fianco delle truppe schierate con il dittatore Francisco Franco. Negli anni della Seconda Guerra Mondiale veste una divisa fascista e poi, dopo l'8 settembre 1943, collabora con i nazisti. Ma il giovane Gelli ha uno sveglio e capisce che il collasso del Terzo Reich è inevitabile. Così contatta i partigiani e in qualche caso si attiva per evitare i loro arresti e rappresaglie, gesti che gli valgono lettere a proprio favore quando deve gestire le accuse formulate a suo carico. Si fa notare in quel periodo dallo statunitense James Jesus Angleton, capo delle operazioni in Italia dell'OSS, antesignana della CIA, e inizia a intessere relazioni utili per il suo futuro. Ma il dopoguerra è duro e Gelli si barcamena tra mille lavori, tabaccaio ambulante, libraio, aspirante imprenditore. Sa che l'immagine però è importante, per cui è sempre ben vestito e sembra disporre di somme di denaro superiori alle sue possibilità. Denaro la cui origine resta senza spiegazione, ma è senza passaporto e fino al 1956 resta un osservato speciale da parte di forze di polizia e servizi segreti. La politica, lo sa, è la chiave per svoltare e allora, scartati i giri del movimento sociale a lui più congeniali, vira sulla Democrazia Cristiana. Preferisce gli ambienti riconducibili alla corrente di Giulio Andreotti e viene a contatto nel tempo con Attilio Piccioni. In seguito, travolto dal lo scandalo, uno dei primi della Repubblica, innescato dalla morte della giovane Vilma Montesi. E poi Gelli entra in contatto anche con Romolo 12, di cui diventa portaborse. Gli anni 50 sono quelli dell'ascesa e una commessa da 40.000 materassi per le forze armate della NATO gli vale il successo e il denaro. Nel 1970 si è già trasferito in una sontuosa villa alle porte di Arezzo, a cui dà il nome della moglie, Wanda. Qui, al pari dell'hotel Excelsior di Roma, confluiscono alcuni degli altolocati contatti con cui Gelli lega, tra questi il generale dei carabinieri Giovanni Battista Palumbo e il generale del SIFAR Giovanni Allavena. Alle sue frequentazioni si aggiunge anche il presidente della Repubblica Giuseppe Saragat e nel 1979 Gelli conosce Alexander Haig. È l'assistente di Henry Kissinger al Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, divenuto poi segretario di Stato durante la presidenza di Ronald Reagan, con compiti antinsurrezionali in America Latina. Inoltre, a Washington, Gelli ha anche un altro interlocutore di rango, il deputato repubblicano cristiano Filippo Guarino, legato a Michele Sindona, nome illustre della P2. L'ingresso in massoneria risale al 1962 con l'affiliazione alla loggia Romagnosi di Roma e con una successiva carriera massonica dalle caratteristiche del tutto irrituali. La loggia che gli viene affidata, la Propaganda 2, finisce per diventare uno stato nello stato, radunando al suo interno 52 ufficiali dei carabinieri, 50 dell'esercito, 37 della guardia di finanza, 29 della marina, 9 dell'aeronautica e 6 della pubblica sicurezza. La rovina sembra arrivare il 17 marzo 1981 con la scoperta delle liste della P2. Negli anni successivi Gelli, che fino ad allora era passato indenne attraverso tentati golpe, dossieraggi, omicidi eccellenti e relazioni con la mafia e con l'eversione di destra, trascorre lunghi periodi di latitanza all'estero. Condannato per i depistaggi alle indagini sulla strage di Bologna e per il crack del Banco Ambrosiano, in Italia resta in carcere però solo un paio di mesi. Poi, per motivi di salute, passa ai domiciliari a Villa Vanda, non smettendo mai di coltivare relazioni importanti. E negli ultimi anni della sua vita rivela che quando si scoprì l'esistenza della loggia P2, si era a 4 mesi dal completamento del golpe che si andava preparando. Un golpe soft che avrebbe dovuto essere compiuto a un anno dalla strage di Bologna, senza militari in stile colonnelli greci, perché in quel momento avevamo in mano tutto. Nella confusione di questa strage, di cui ancora non si riusciva a misurare la portata, si sviluppò un'operazione di immediata solidarietà dal basso. Prima ancora che venissero diramate indicazioni ufficiali, chiunque fosse nei pressi della stazione si diede da fare per liberare le macerie, cercare i feriti, dare una mano. Uno dei personaggi più noti di quella giornata è stato Agide Melloni, autista dell'autobus 37, che utilizzò il suo mezzo per portare i cadaveri delle vittime all'obitorio. Io non ho parlato per molti anni su quanto mi è accaduto a me, cioè come sono stato coinvolto quella giornata del 2 agosto 1980. Non ne ho parlato perché quello che ho visto, quello a cui ho assistito, quello che ho percepito è un insieme di sensazioni, di emozioni molto forti che hanno lasciato un segno molto, molto profondo in me. Quel giorno sono venuto a contatto con il dolore, con il dramma, con la violenza, con la paura, con la necessità di rispondere, tutta una serie di situazioni che hanno lasciato in me una profonda sensazione di qualcosa che andava in qualche modo, lasciatemi passare questo termine, protetto, no? E per me significava tenermelo dentro, non parlare, anche perché lo era allora e continua ad esserlo ancora adesso. Quando ne parlo per me è un ritornare a quel giorno, quindi non è sempre facile. La risposta di Bologna non era scontata, perché io credo che quando accade una cosa così grave, così grande, così violenta, no, come quello che è accaduto il 2 agosto 1980 nella stazione di Bologna, non è scontato che una città reagisca come poi reagì Bologna. Da una parte c'è anche in tutti noi, in tutti quelli che erano là quel giorno e poi anche nei cittadini, c'è stata anche una certa sorpresa nel vedere una città che non si è adagiata sul clima di paura paura che qualcuno voleva costruire e creare. Di fronte ad un massacro come quello al quale abbiamo assistito in stazione, un massacro in tutti i sensi, una violenza. Io personalmente non ho avuto nessuna conseguenza né sul mio fisico né per quanto riguarda i miei familiari. Io non sono stato toccato dalla violenza, ma sono stato toccato interiormente dalla violenza, psicologicamente da questa violenza. Chi ha messo la bomba, chi ha fatto esplodere la bomba, mi ha creato dolore, mi ha creato una sensazione proprio di preoccupazione, perché quello che è stato fatto veniva fatto ai cittadini di una città, persone normali, persone tranquille, gente che andava al mare, andava in montagna, tornava, oppure andava al lavoro, o passava di lì per caso quel giorno. Una violenza inaudita nei confronti di persone che non avevano nessuna colpa. Di fronte a questa cosa qui, aver assistito alla reazione, alla pronta risposta di tanti cittadini, giovani, non giovani, uomini, donne, ragazzi, che accanto ai professionisti del soccorso, i medici, gli infermieri, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, i ragazzi del genio militare, hanno convissuto fianco a fianco con noi, siamo convissuti fianco a fianco con loro, per ore e ore. Abbiamo fatto delle cose da perfetti inesperti, però le abbiamo fatte. Abbiamo sentito dentro di noi il bisogno di non lasciar cadere la necessità di rispondere al bisogno di aiutare, al bisogno di portare conforto, al bisogno di assistere ed essere anche veloci di fare qualche cosa che potesse salvare delle vite, perché quel giorno ognuno di noi, non è scritto da nessuna parte che anche le persone che non se la sono sentita fisicamente di stare lì sulle macerie a portare via detriti, travi, lamiere e ad aiutare l'estrazione dei corpi da quelle macerie, chi non se l'è sentita non è mica andata via, perché ci sono state tantissime persone che hanno risposto a quel gesto, a quell'atto di violenza, facendosi vedere subito in piazza, con una presenza, con una mobilitazione. Ci sono state altre persone, tante altre persone che sono state lungo le vie, io ve lo posso testimoniare questo, perché per ore, tante persone erano lungo le strade che io percorrevo con l'autobus col quale portavo i corpi delle vittime agli obitori. Erano persone che erano lì, non erano sulle macerie, ma è come che lo fossero, erano lì lungo le strade, non andavano via, in silenzio, urlavano un silenzio di dolore e sono rimaste lì. E quindi io credo che nella brutalità di quella giornata è avvenuto un qualche cosa di molto bello. Se qualcuno voleva ottenere un risultato, ha ottenuto il risultato opposto. Se qualcuno pensava di farci chiudere in casa, che la paura prendesse il sopravvento sulle nostre reazioni, ha ottenuto proprio l'esatto contrario. Voleva fare questo. Il turno chiamato corta è quello più estremo della cortissima. Sono due turni molto adatti a chi, come il babbo, preferisce alzarsi presto, lavorare e staccare presto. Dice che così ha la giornata libera, anche se poi alle 10 di sera si addormenta. L'azienda, chiamata così senza mai davvero nominarla, è uno di quei posti dove lavorare è quasi un piacere, sicuramente quasi un titolo per gente che sicuramente di titoli non ne ha. Durante tutti gli anni 70, i dipendenti del servizio di trasporti pubblici bolognesi sono stati vestiti con uno stile invidiabile, camicie azzurre, pantaloni a zampa, mocassini e libertà di barba, baffi e capelli, tipo George Harrison e Gianni Rivera. Il babbo, di storie sulla guida, te ne potrebbe raccontare per ore. Per 30 anni ha portato a spasso l'umanità più varia con il solo obiettivo di finire il turno puntuale. Perché se sei puntuale, finisci il turno in orario. L'azienda era una roba fresca, giovane, gli autisti avevano fatto un bel ricambio, non c'erano più quelli del tramvai, malgrado le rotaie di via Rizzoli ti facciano ricordare di un'urbanistica di tempi andati. La linea 30 tagliava Bologna in direzione nord-sud, da San Michele in Bosco alla Bolognina, portava in centro gli impiegati degli uffici e gli operai della Casaralta alla Casaralta. E non è un caso che la squadra del quartiere si chiamasse Boca, con il puntino tra Bo e K. Lo leggi come Boca Junior, ma in realtà significa Bolognina Casaralta. Un giorno in via Marconi il babbo fa fermata. Dalla porta anteriore si affaccia uno tutto di corsa e chiede: questo va in stazione? Scoprì poi di aver imbarcato un giornalista dell'odiatissimo Resto del Carlino. Il babbo è sempre stato uno di molte parole e buoni sentimenti, ma con una freddezza che in molti punti della mia vita ho scambiato per menefreghismo. Anche quel giorno aveva il solito obiettivo di staccare il turno in orario, andare a prendere mio fratello all'asilo e ritornare a casa da mia mamma. Il 2 agosto 1980 la linea 30, come al solito, scendeva da via Marconi verso Piazza dei Martiri, dritto in via Mendola e poi a destra, davanti alla stazione dei treni. Sembra distantissimo, ma se la fai a piedi, in 5 minuti sei arrivato. Il tipo di corsa dice: è scoppiata una bomba. Due, tre, 10, 20, 50, 76 alla prima conta, 85 al definitivo, centinaia i feriti. Eppure la linea 30 alle 10:30 passò per viale Pietramellara, non sospettando nulla del genere. La stazione dei treni non era più una stazione dei treni, era una cosa, una roba, senza senso, forma, polvere, macerie, gente ferita e grida, le ambulanze per prime, la polizia. Una bomba in stazione il 2 di agosto. Chi ci avrebbe mai pensato? Chi è stato? Mambra Fioravanti, la P2. Sicuramente lo Stato lo sa. Non lo sanno gli autisti degli autobus, tra cui il babbo. Non lo sanno gli autisti dei taxi, i dipendenti della ferrovia, i lavoratori della Cigar, chi passava per caso, chi andava via, tornava, se ne stava nella sala d'aspetto della seconda classe. Non lo so io, nato nel 1985. Non lo sai tu, non lo sanno i vigili del fuoco, i medici. Non lo sa ancora nemmeno l'autobus 37 con Agide Melloni, che per 16 ore prestò servizio come soccorritore. La linea 30 oggi passa ancora dalla stazione dei treni di Bologna, fa ancora quel percorso. In verità, chiunque passi per la stazione fa ancora quel percorso. Un ruolo centrale nell'organizzare le operazioni e coordinare gli aiuti venne svolto da Miriam Ridolfi, assessora al decentramento e ai servizi demografici, insediata con la nuova giunta proprio l'8 giugno di quell'anno, che aveva avuto l'incarico di restare a Bologna per sovrintendere ai servizi comunali per il periodo estivo. Al momento dello scoppio di quella bomba in stazione il 2 agosto 80 io avevo 36 anni, ero stata appena nominata assessore al decentramento e ai servizi demografici del comune di Bologna, venivo dall'esperienza della presidenza del quartiere Corticella e dall'esperienza del sindacato scuola che avevo fondato. Essendo stata nominata assessore 3 giorni prima, il 27 di luglio, quando ci fu da attribuire l'assessore di turno, l'assessorato di turno dall'1 al 15 agosto non voleva farlo nessuno perché di solito si organizzavano le ferie e così toccò alla più giovane, l'ultima arrivata eccetera, che in questo caso ero io. Essendo io l'assessore di turno, io avrei dovuto prendere le redini del comune anche con le firme, con quanto serviva, perché era successo qualcosa di molto grosso alla stazione che ancora non veniva bene identificato e quindi era necessario che noi ci mettessimo subito in contatto con prefettura, questura per fare la nostra parte di amministrazione comunale e contemporaneamente, poiché i vigili urbani ci riportarono che mezza stazione era finita come sotto una bomba, era necessario probabilmente anche fare un punto, un centro di coordinamento per la tanta gente che sicuramente era stata coinvolta. La prima cosa che facemmo fu di mandare i vigili proprio in stazione, tutti quelli che stavano in qualche modo scappando, che erano stati coinvolti, che subito dopo la grande esplosione, il momento, da quello che raccontavano, c'è stato proprio come 3-4 minuti di silenzio e di polvere che ha coperto il cielo, molti appunto scappavano naturalmente così come erano, fin dalle 10:15, 11:10, al centro di coordinamento hanno cominciato ad arrivare quanti erano ancora così un po' sotto shock. Nel frattempo, per l'immediatezza pensa che hanno avuto i vigili del fuoco e il responsabile della manutenzione del comune, Ivano Paolini, si sono immediatamente coordinati anche i soccorsi in stazione. Contemporaneamente dall'ospedale maggiore la dottoressa Teresa Alberti è riuscita ad arrivare anche lei 10 minuti dopo con la prima ambulanza, che anzi ne avevano allertate due, e quando si è resa conto della dimensione lei ha dato subito alcuni ordini lasciando lì un collega medico, poi è ritornata all'ospedale maggiore ma ha dato ordine di istituire immediatamente anche lì un centro di coordinamento, che significava mandare a casa tutti i degenti che potevano ritornare a casa prima del tempo, disporre delle sale operatorie e allertare tutti gli ospedali dal Sant'Orsola al Rizzoli, al traumatologico, tutti gli ospedali e anche quelli limitrofi di Bentivoglio eccetera. Ha avuto anche lei la grande intuizione alle 11:15 di separare l'entrata di tutti i feriti, di quelli che arrivavano in ospedale con le ambulanze, e istituire invece una sorta di coordinamento anche lei per la stampa, per la gente che chiedeva notizie eccetera, con gli assistenti sociali dell'ospedale maggiore. Il nostro centro di coordinamento e quello di Teresa Alberti furono in comunicazione diretta. Cioè, si era diffusa sin dall'inizio l'idea che fosse saltata una caldaia, non era venuto in mente che potesse trattare magari di una bomba, sia per le dimensioni sia per la puzza che tutti quelli che c'erano si ricordano. Si disse subito che non poteva essere una caldaia, ma doveva essere qualcosa di ben peggio e forse una bomba. A metà del pomeriggio, quando già molti feriti erano stati ricoverati, qualcuno con l'urgenza, tanto che erano stati portati ai centri grandi ustionati, li abbiamo salvati così, avevamo praticamente gli elenchi, se non di 70 persone morte, certo di una sessantina, che avevamo già tra l'altro portati negli obitori, sia in Via Irnerio che all'obitorio del cimitero, e tra l'altro in Via Irnerio con quell'autobus è stato adibito a portare morti, perché tutte le ambulanze servivano per portare i feriti, e poi naturalmente c'erano tanti dipendenti, alcuni sono tornati persino dalle ferie il giorno dopo, tanti dipendenti che si sono messi a disposizione. Non c'erano i telefonini, non c'era niente, noi avevamo isolato due linee per stare in contatto con prefettura e forze dell'ordine, e poi avevamo i telefoni a disposizione perché tutti avevano bisogno di collegarsi. E poi non ti dico, siccome abbiamo divulgato subito con le radio private i nostri numeri del coordinamento, siamo stati presi dalle telefonate, tutti quelli che erano lì, i dipendenti, rispondevano alle telefonate. C'era anche tanta gente che, non sapendo niente, sapevano che magari i loro cari erano passati per Bologna ma non sapevano quando, quindi non sapevano se erano arrivati eccetera. Ci hanno aiutato moltissimo le radio private nei primi 5 giorni, insomma, fino al tempo del funerale abbiamo risposto a una cosa come 16.000-17.000 telefonate. È stato importante il contatto che abbiamo avuto con i sindacati. Il sindacato ci ha assicurato che loro avrebbero preso in mano un po' la situazione politica, ma la sera del sabato, con dei passaparola, con il fatto che tanta gente si era comunque radunata anche per chiedere cosa posso fare io, e si era registrata lì al nostro centro di coordinamento, aveva cioè un punto di riferimento, col passaparola si diceva ci troviamo tutti in piazza. Quando si è saputo che appunto la sera i sindacati unitariamente avrebbero su un palco di fortuna parlato alla nostra popolazione, già dicendo che si trattava sicuramente di un attentato eccetera, che erano anni difficili di piombo, che si voleva mettere in discussione la risposta democratica di Bologna, ecco, io ho cominciato a tranquillizzarmi.